dicevo, quindi prima mi ponevo una domanda, ma quindi non possiamo fidarci delle nostre sensazioni. Cioè, ho posto questa domanda, ma in realtà pensavo, quindi non sono vere. In realtà le sensazioni sono reali, insomma, ci sono. È il fidarsi o meno che fa la differenza, cioè il dargli un determinato significato che fa la differenza. È proprio questo. Quindi uno dice, sentire è importante, sapere che lo senti non è una finta, se lo senti in qualche modo è vero che lo senti, ma non è vero il motivo, cioè non per forza è vero il motivo che gli dai. Per cui lo senti. Esatto. Io per esempio posso sentire una sensazione di fastidio allo stomaco e attribuirla a un cibo che ho mangiato, ma questa attribuzione di causa è un'interpretazione, magari il fastidio allo stomaco è dato a qualcosa che non digerisco nella mia vita, quindi è l'interpretazione che è importante imparare a dare. Come si impara a dare interpretazioni corrette? Attraverso l'autosservazione, sviluppando quella famosa posizione di testimone o di neutralità, perché altrimenti siamo guidati dai nostri pregiudizi e continuiamo a osservare sempre le stesse cose e a riprodurle. In posizione meta hai anche una mappa più allargata, perché puoi prendere come possibili cause delle cose che magari in altre posizioni non pensi proprio plausibili. È proprio così. In altri termini, e qui si riapre un altro discorso molto importante, quando noi siamo testimoni di quello che ci accade, cioè siamo in uno stato di consapevolezza, il corpo comincia a rilassarsi e, cosa altrettanto importante, comincia ad aprirsi il centro del cuore e quindi l'occhio del cuore, come dicono gli indiani Cherokee. L'occhio del cuore è l'occhio che vede in profondità, perché noi normalmente cosa facciamo? Tendiamo a isolare i fenomeni dal flusso, isolandoli poi li reifichiamo e gli diamo un'interpretazione, una volta che li abbiamo staccati, che è assolutamente superficiale. Anche i rapporti di causa-effetto sono rapporti superficiali. Per poter avere una visione più profonda occorre non togliere gli eventi dal flusso, ma saper tenere l'occhio sull'evento e l'occhio sul flusso. Il famoso discorso che facciamo noi sul gelato: guardi un gelato, cos'è? Beh, un gelato di crema. Ma se guardi più in profondità vedrai che la crema viene dal latte, che il latte viene dalle mucche, che le mucche per avere il latte devono poter mangiare l'erba, che l'erba viene, quindi che tutto è collegato a tutto il resto. Allora soltanto quando siamo in una consapevolezza dell'interessere, allora il nostro diciamo le nostre attribuzioni causali possono avere un qualche senso, altrimenti sono miopi, cioè come quello che vede a 20 centimetri di distanza e quindi deve attribuire cause in base a quello che vede, che è molto poco. Decisamente. Ok, va bene.